Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Oh, caro chef, come stai? Bene, bene, buongiorno a tutti, buongiorno Pier. Già la solita domanda, la primavera facciamo... nell'aria. Hai mangiato bene? Sì. Hai mangiato poco? Okay. No. Solita risposta, okay. Cioè, ho mangiato il giusto, ragazzi. Ma arriveremo a dire ho mangiato poco. È sempre febbraio, è vero che io già mi sento la primavera, l'estate nelle vene, no? Però insomma, quindi oggi tra lardo, erbe, fontina, volevo farti una domanda per capire la regione. Quindi... Non amo il lardo, per esempio, per dirti. Lo so che può sembrare un ossimoro. Pardo non ama il lardo, fa anche rima e qualcuno ogni tanto mi chiama Pier Lardo. Sai quando gli hater su Twitter, che sono, ne ho pochi, devo dire, non mi lamento perché poi non blocco nessuno, perché sono democratico, fino ad oggi sono democratico, e però ogni tanto qualcuno mi chiama Pier Lardo. Quindi mangia come Pardo era più bello, mangia come Pardo era più bello. Esatto, vabbè. Comunque oggi c'è un altro famoso Davide, fra l'altro valdostano doc, Davide Pessina, ex cestista, telecronista del basket e non solo su Sky. Ciao Davide, come stai? Ciao Pier, buongiorno a tutti. Davide, bene, buongiorno, ciao. Un omone, 2,05 m, 2,05 m, quanto sei? 2,05 m. Mi sono abbassato adesso con l'età. Lo so, ti sei abbassato. Poi sai, i giocatori di basket vengono misurati con le scarpe da basket, giusto? Quindi con come avessero i tacchi, più o meno. Tiriamo a fregare. Numero di scarpe? 47,5, 48. Ma, pensavo di più, eh? Cioè, io infatti non ho piede grosso per la statura. Esatto, va bene. Tu sei valdostano, tu sei veramente valdostano, io posso confermarlo, no? Sì, io sono nato ad Aosta, non di origine, per nel senso che mia mamma è di Parma, mio papà era piemontese, ma nato ad Aosta e cresciuto ad Aosta. Quindi praticamente nel tuo pantheon alimentare, cioè un vero valdostano, cosa mangi? Viste anche le condizioni meteo che sono un po', no? Incidono sull'umore e sull'alimentazione. Parlavate di lardo, fontina, ecco, queste cose sicuramente qui sono buone, da queste parti, formaggi di vari tipi, zuppe, polente, insomma ce n'è. Molto molto caldi, no? Molto calorico per scaldarsi. Per gli inverni passati, perché adesso poi l'inverno è un po' da misurare. Non c'è più, però esatto, riguarda la tradizione. Esatto. Senti, ma un giocatore di basket, una dieta, non ho mai affrontato il discorso, una dieta o quello che mangia un giocatore prima o dopo la partita. È diverso da quello di un calciatore o di un ciclista, no, di tennista? Immagino che siano più o meno simili. Immagino più o meno simili, nel senso che quando giocavo io c'era meno attenzione, io smesso da un po', c'era meno attenzione, si mangiava o la pasta pomodoro o si voleva il filetto o l'appetto di pollo, adesso credo ci sia ulteriore attenzione all'alimentazione, però immagino che sia abbastanza simile, insomma, anche se è un po' più veloce rispetto magari ad altri sport, al calcio mi viene in mente, sì, il basket è un po' più muscolare, poi non lo sai, il basket ha insomma la diversificazione dei ruoli del basket è molto forte, no? Nel senso che dal punto di vista proprio delle caratteristiche fisiche, la differenza che esiste fra un play e un pivot, certo, è forse di più della differenza, ma oddio, anche nel calcio ci sono i giocatori piccoli, scattanti, magari i difensori sono un po' più pivot, però insomma secondo me nel basket forse è ancora più netta questa separazione, quindi anche come tipo di struttura fisica e anche come fabbisogno calorico. Non lo dico solo perché io giocavo numero 4, ma poi non ho avuto più l'altezza, quindi però 19 centimetri in meno e non solo, quindi però cercavo di dire che insomma i lunghi possono mangiare un po' di più, giusto? Ci provavo anch'io, ma non ci cascavano in tanti. Lo so, non ci cascavano. Senti, oggi, professor Oldani, facciamo un viaggio della fonduta, parleremo di lepre, di cacciagione, poi c'è un piatto molto interessante che è il carciofo, uovo, salsa di noci, mele e moscetta in polvere, che è un piatto già più primaverile, perché la cucina di montagna la si può declinare comunque con una stagionalità, ma, no? Assolutamente, però io ti dico anche un piatto come una fonduta di fontina, che magari è vista come un piatto pesantissimo, se dai le giuste quantità, una giusta emulsione di fontina purché abbia il profumo e non l'intensità, quella energetica del formaggio, la puoi tradurre anche in un piatto primaverile o estivo. Assolutamente, per cui è tutto anche possibile. Cioè, con l'aria di montagna, anche in una grande giornata di sole con 20 gradi, comunque si può mangiare con quel fresco che ti arriva. No? Assolutamente, cioè, dipende un po' come vengono trattati gli ingredienti. In base a come vengono trattati, li puoi declinare nelle varie stagioni o nei vari sport. Assolutamente. Senti, Davide, la tua passione alimentare, se dovessi sceglierne una, valdostana, ce n'è una? Per esempio il rapporto con la fonduta com'è? Ottimo, purtroppo devo evitarlo il più possibile, ma è ottimo, potrei vivere solo di formaggi io. Per gusto proprio, per cui la fontina è effettivamente uno dei miei ma più preferiti. Una fontina Una fontina, scusami Davide, più giovane, quella di un anno oppure quella azzardata, invecchiata dai 2-3? Anche ho assaggiato di 4 anni, che è una cosa molto strana, però. Cioè, la più gommosa, quella fresca o quella un po' più... No, io quella un po' più giovane, gommosa, fresca, dal peggio possibilmente, però... No, no, è fontina la DOP, per cui bisogna proteggerla, però va, certo, va a seconda delle situazioni, perché magari per una fonduta, quindi sciogliendola, una fontina di un anno può andare, una fontina un po' più invecchiata, utilizzarla magari in abbinamento, certo, con miele o altre cose. Fra l'altro, sì, sì, sì. Fra l'altro c'è anche la componente, devo dire, che poi è la stessa componente della raclette, no? La componente del cibo conviviale, che devo dire è una cosa molto divertente, sì, no? L'idea che il cibo è al centro, le persone sono ai bordi, si spizzica, come diciamo noi a Roma, è molto piacevole questa cosa, sì. Ha anche un valore, diciamo, di interazione, unione, di socialità. Beh, no? Io devo dire che un'altra cosa importante che fanno in Val d'Aosta è la grolla. Certo. Cioè, con questi beccucci in questi contenitori fatti dai falegnami, sono cose molto pregiate, è senso di convivialità. Esatto. Lo fai passare col caffè, con ginepra, cose varie. Per dentro chiudere. Chiodi di garofalo, sì, sì, sì. Anche la bourguignone è un concetto simile. Esatto. Che cuoci la carne dentro il bollitore con tutte, esatto, le macchine. E da lì vedi come si espone un po' in una cucina globale in tutto il mondo, perché nei miei viaggi in Giappone fanno, credo di averlo già accennato, lo shabu shabu, che è un Kobe, certo, un manzo giapponese lavorato, trattato, allevato in maniera particolare, dove ci sono delle piccole fette che vengono sciacquate, perché shabu shabu vuol dire sciacqua sciacqua, in acqua appena appena bollente in mezzo al tavolo, dove fai convivialità oltre che a mangiare. Poi posso dire una cosa un po' da italiano medio. Io una delle cose che non capisco alla Valle d'Aosta, quando mi è chiesto di andare a sciare, chiaramente si scia sul versante italiano, sul versante francese, la cosa che veramente non capisco, il Monte Bianco con il tunnel meraviglioso eccetera, scenario fantastico, come passato il confine il caffè non sa più di caffè e diventa una brodaglia sulla quale non vorrei e la pasta cioè, ma com'è possibile? Sì, un attimo, com'è possibile? Sono 5 km, veniamo noi, facciamo un piccolo training, l'acqua sarà la stessa, facciamo un piccolo training con grande però, rispetto per gli amici francesi, allora, let's cargo, io con grande rispetto, non dire le parolacce, Toulouse-Lautrec, Platini, Trezeguet, quello che vi pare, Trezeguet e Scargot, mi raccomando. Cioè, insomma, cultura sa Monet, gli impressionisti, però voglio dire, ma non ci vuole devo molto. Dire che però questa, no, questa cosa che tu dici era vera. Beh, ancora attualmente, se tu vai nel rifugio a mangiare a Chamonix non è la stessa cosa. No, però un po' di influenza italiana, come noi l'abbiamo ricevuta dai francesi, l'abbiamo anche data, per cui se trovi qualcosa di italiano, parti dal caffè come base o qualcosa con una fonduta o secondo, anche una polenta lavorata, secondo me la trovi di qualità anche da quelle, sì, parti. Ho capito, la polenta lavorata, ma una pasta al dente non ci vuole, vabbè, ho comunque capito, adesso è inutile, poi però... sembro l'italiano medio, non voglio fare questo, grande saluto agli amici francesi, grande rispetto. Allora, Messier Oldani, Messier Pessinacci, fermiamo un attimo e ripartiamo da qui. Moui. Mangia come parli, mangia come parli. Siamo con Davide Pessina. Senti, io Davide non posso non chiederti qualcosa su una tragedia che ha toccato tutto il mondo. È uno dei... una delle figure più di ispirazione fra gli sportivi e non soltanto, un uomo capace di rendere il basket ancora più popolare, di onorare questo gioco in una maniera incredibile. La sua lettera di addio al basket la conosciamo, insomma, quello che ci ha lasciato Kobe Bryant, non soltanto perché abbiamo la fortuna di aver vissuto con lui, con il papà, anni importanti, quindi ci sentiamo particolarmente legati, però adesso che è passato quasi un mese da questa tragedia, che cosa rimane nella tua testa di appassionato, di collega, di giocatore di basket e di commentatore di basket adesso? Rimane sicuramente un vuoto, rimane l'impressione che ha destato anche tutta la reazione mondiale, non solo italiana, perché noi comunque un po' di parte siamo, ha passato tanti anni in Italia a seguito del papà, ma mondiale, la reazione mondiale di gente più o meno legata al basket, per cui questo fa capire di quanto fosse un personaggio trasversale anche per gente che insomma segue meno il basket. La cosa che mi ha colpito è tutto adesso questi che cercano, tutti cercano l'eredità, no, che ha lasciato sulla la famosa Mamba mentality, il suo fatto di lavorare sempre, di essere estremamente competitivo, estremamente ambizioso. Secondo me però questa è solo una parte di quello che può lasciare sicuramente l'importanza del lavoro duro, del per quanto tu abbia talento lo puoi sempre migliorare, però in generale la sua capacità di arrivare a ottenere dei risultati a modo suo, senza scorciatoie, senza dover essere particolarmente simpatico a compagni, a avversari, a nessuno. Lui era lì per vincere, non ha fatto sconti a nessuno, prima di tutto a se stesso, e alla fine questo secondo me è una cosa che ha particolarmente colpito la gente, perché comunque la vita che ha fatto lui non è una vita facile. Era veramente ossessionato da essere il numero uno, da raggiungere Michael Jordan, dall'essere come lui il più possibile. In più aggiungo che per la fama planetaria giocare nei Lakers ha aggiunto qualcosa. Kobe e Lakers insieme diventano una cosa unica, una delle squadre più iconiche del basket NBA. Senti, fonduta di Fontina, mosto cotto e profumo di arancia, una rivisitazione della Fontina, assolutamente, della fonduta, del procedimento della fonduta. Anche qui io vorrei utilizzare una fonduta, una fontina di 3-4 mesi di invecchiamento. Farei bollire 2 decilitri di latte a parte, taglierei a piccoli pezzettini 320 grammi di fontina. Una volta che ho bollito il latte lo aggiungo alla fontina, la faccio diluire, la faccio sciogliere. Poi nel caso avessi bisogno farei bollire altri 20 centilitri di latte, lo farei addensare leggermente con un po' di maizena e darei la giusta densità alla nostra fonduta. Per cui ho tolto, per quello che è la classica ricetta, i tuorli d'uovo, che il più delle volte quando non hai praticità nel comporla rischi di buttar via tutto, perché fai strappare a seconda della temperatura della fontina con cui fai fondere la fontina. Se metti l'uovo, strappa, butti via tutto. Per okay. cui questa è una ricetta più delicata, più leggera, meno naturalmente, un po' meno di colesterolo, perché non c'è l'aggiunta del tuorlo d'uovo. Grazie. È più facile. Grazie a nome della comunità, giusto, colesteroli. Dei colesteroli. Per cui diventa un procedimento molto semplice, molto facile. A questo cosa facciamo? Una volta che lo mettiamo nel nostro piatto, io ho pensato di insaporirla con una buccia di arancia fresca e un arancio tagliato a vivo, che dà quella freschezza, quel contrasto al grasso del formaggio con l'acidità appunto dell'arancio. Nel caso volessimo aggiungerlo e fossimo in una stagione invernale o direi autunnale inoltrata, volessimo aggiungere il tartufo bianco, potremmo levare, però levando il profumo dell'arancia che andrebbe a coprire poi sì. quello del tartufo bianco. Sì, poi sarebbe onestamente uno spreco, no? Anche che non è che il tartufo bianco proprio te lo regalino, quindi insomma. Esatto, e poi soprattutto ammazzarlo tra virgolette certo. con l'arancio, devo dire che sono due profumi, non andrebbero. Beh, sì, le piace questa rivisitazione. L'arancio potremmo dire che si ispira anche al pallone da basket, eh? Certo, volendo, sì, magari facciamo lo righiamo con un riga limone, un riga arancio, perfetto. Perché ha fatto la battuta d'inizio nel suo ristorante con una pallina da tennis riprodotta benissimo con del formaggio dentro, ma il basket ancora non l'hai omaggiato. Dobbiamo fare qualcosa. Perché devo dire, sono partito con la battuta d'inizio, la prima idea era calcio d'inizio, perché sai che sono amante del calcio, certo. l'ho giocato. Poi calcio d'inizio, diciamo la verità, era... se non ti fossi rotto quel crociato adesso non avreste mai sentito parlare. Voglio dire a tutti che mi sta prendendo in giro, non avreste mai sentito, se non quei mille che dicevano eri terzino, ero punta e facevo un gol a partita. Ecco, non avreste mai sentito parlare di Lukaku se lui non si fosse fatto male quel giorno. Ma no, di ieri, no. tempi indietro. vabbè, grazie Davide, uno che invece lo sport l'ha fatto alla grande. Bene, abbiamo Federica con noi. Federica, sì, presidente di Skyway di Courmayeur, il cognome giusto con come si pronuncia? Diciamolo bene. Bieler. Ecco, io già pensavo Bieler. Non c'è nessun accento. Federica, ciao. Bieler, come diciamo a Roma Nord, Bieler. Federica, esatto. Come si mangia fra le montagne? Tu lavori in un posto. A Federica devi chiedere come si mangia a 3500 metri. Ecco, devo dire, ma tu lavori lì fisicamente? Avete citato tanti sport, Davide, un piatto prima o poi dovrai dedicarlo allo sci anche. Faremo anche quello. Mettiamo assieme due spaghetti che possono assomigliare a due sci, vedi, già trovato. Sì, due spaghetti te li mangi tu, io mangio tutta la produzione sci degli sci dell'anno. Senti, Federica, il tuo posto di lavoro è uno dei più belli al mondo o no? Cioè io credo veramente hai un ufficio meraviglioso. Sì, sono davvero privilegiata perché in realtà la nostra stazione offre 3 ponti, quindi vedo il Monte Bianco da 1300 metri, da 2002 e da 3600. E quindi riusciamo a offrire anche delle esperienze. E qual è la vista migliore? Qual è la vista migliore? il Monte Bianco è bello sempre in tutte le sue sfumature, però sicuramente dall'alto si è così vicini che sembra di averlo davvero, di essere affacciati sul Monte Bianco, quindi la stazione in alto a livello panoramico è sicuramente incredibile. Senti, il tuo Pantheon, le tue ricette valdostane preferite, c'è una passione particolare che hai? Beh, le mie ricette sono quelle che portano avanti la tradizione della famiglia. Davide ha avuto l'ho la fortuna assaggiata. Di assaggiare la cucina della nonna. Ah sì? Fantastica. La cucina di Montagna è una cucina semplice, per cui portiamo avanti anche nelle nostre stazioni a 3500 metri i piatti della tradizione. Quindi sicuramente citerei quello che avevo mangiato insieme a Davide dalla nonna, che è questa suppa alla Valpellinense, che è un piatto che offriamo anche a 3500 metri, un piatto a base di fontina, perché ovviamente la fontina fa un po' da collante, da trignone, certo, in tutti i nostri piatti. Con Davide siamo andati anche a visitare un magazzino dove, vero, vengono appunto stoccate le fontine, con il 90% di umidità in questi bunker della guerra, sicuramente molto affascinanti. E è un piatto molto semplice, il pane nero o il pane bianco, si può fare l'alternativa, uno strato di pane, uno strato di fontina, del cavolo verde insieme al brodo, 2 strati in forno, e diventa un piatto unico, energetico, ma al tempo stesso molto salutare. Fantastico. Oltre ovviamente alla polenta arancia. Polenta arancia, guarda che da come lo racconti, secondo me tu cucini anche bene, non ancora assaggiato la tua cucina, adesso aspetterò. Secondo me, Davide, è meglio che rimaniamo su quella della nonna, sì, o della mamma. Io mi fido della nonna, anche della mamma, sono molto tradizionale da questo punto di vista, mi sembra una grande idea. Fontina, devo dire anche la Toma, che è un formaggio piemontese, però c'è anche il Cressonei. Toma, ci sono veramente tante, ma anche vegetali, anche le erbe spontanee che loro hanno, anche nella primavera, fra poco, quando comincerà a sciogliere un po' di neve, che cominciano questi germogli, queste erbe sono cose fantastiche, sono tutte da scoprire in valle. Beh, e poi la montagna è uno di quei luoghi dove il miracolo della natura, no? La magia della natura, che ogni volta, insomma, quando uno ci pensa che nello stesso luogo in estate magari muori di caldo e poi d'inverno invece è tutto coperto di neve, insomma lo spettacolo della rotazione delle stagioni, del correre del tempo diventa sicuramente di un impatto anche emotivo completamente diverso. Senti, Skyway, vogliamo dire come ha cambiato la vita? Diciamolo, perché comunque, insomma, noi siamo ovviamente enogastronomia, ma anche turismo e orgoglio e Made in Italy. Lo Skyway ha cambiato la vita, la qualità della vita degli sciatori e dei turisti e delle persone che vivono la valle, no? Sì, assolutamente, è un impianto che è, diciamo, l'orgoglio di questa valle, è una storia lontana, perché parte negli anni 40, nasceva a scopo bellico, però nel 2015 è stata fatta questa grande opera. Qualche giorno fa avevamo qua l'architetto De Lucchi che parlava delle stazioni del futuro e diceva che sono delle earth station all'interno delle quali non basta più l'impianto, ma bisogna pranzare bene, avere degli interessi, delle altre attività. Per esempio, noi abbiamo aperto con la Fitrelli la libreria più alta d'Europa, quindi in realtà è un impianto panoramico per sportivi, ma la maggior parte dei nostri clienti viene per godere del panorama, del cibo, dell'enogastronomia. Pensate che abbiamo anche una cave del vino dove viene fermentato. Questo è molto bello. Che è un vino dedicato alle guide alpine a 2100 metri. E tutta la fermentazione è fatta nella nostra cantina a 2000 metri, per cui davvero all'interno della salita e dell'ascesa ci sono poi tanti modi per scoprire anche la nostra montagna e i prodotti che la caratterizzano. In attesa che la nostra bella neve riappaia un po' nei prossimi anni. Davvero, quest'anno è un anno un po' particolare, nel senso che ha nevicato molto in autunno, novembre nevicava sempre e adesso è un mese che fa bel tempo e aspettiamo un po' di neve. Le piste da sci sono ancora molto belle, però il paese è quasi primaverile. Assolutamente. Va bene, bellissimo. Sono con la testa immerso in quei luoghi meravigliosi. Complimenti, la stagione dura fino a, possiamo dirlo, fino a fine marzo almeno, no? Come andiamo? Allora, noi siamo partiti tutto l'anno e proporre anche l'estate la nostra alta stagione. Però sì, lo sci e anche i nostri fuoripista e freeride fino ad aprile sono assolutamente. E poi si comincia a giocare a golf, al golf club di Courmayeur, oppure andare semplicemente a fare le passeggiate per, insomma, per tutti gli appassionati. E la montagna è rigenerante, vabbè, ma dico cose quasi banali. Grazie Federica, grazie. Buona giornata. Tra poco, lombata di lepre con salsa civet. Si vede. Beh, chiaro, si vede. Mangia come parli. Allora, sei pronto? Sei pronto con la lombata? Sono pronto. La salsa è si vede. Ma annunciamo prima la nostra ospite o cosa assolutamente, facciamo? È una bella pezza, giornalista enogastronomica per guide, riviste di settore, fra cui I Mont Blanc Magazine e ovviamente anche sommelier. Fra poco parliamo anche dei vini valdostani. Ma intanto, è che rapporto gourmet hai, Arabella, con la salsa si vede? La salsa si vede. Ciao, Arabella. Ciao, benvenuta. Ciao. Mamma mia, ma che domanda gustosa che mi fai. Oldani fa il figo con questa salsa si vede. Prima ho fatto civetta, perché sai, io sono un po' civetta. Ma lui. Se la fa Davide è buona di sicuro, ma scherziamo. Vabbè, allora vai, Oldani, facci sognare. Partiamo. Allora, dico io, per questo piatto, è un piatto di origine francese, naturalmente. La salsa si vede si fa normalmente con una base di fondo di ossa della bestia, in questo caso della lepre, dove viene poi montata con il sangue stesso della bestia, per cui non è un'operazione che si fa più. Adesso la semplifico un po' per i nostri ascoltatori, per cui 200 grammi più o meno di ossa di lepre sminuzzate a piccoli pezzi, che facciamo tostare fortemente in una padella con un filo di olio o magari anche burro al posto dell'olio, possiamo anche usarlo. 50 grammi di carote tagliate a piccoli pezzi, sedano idem lavate tagliate a piccoli pezzi, facciamo tostare per bene anche le verdure, aggiungiamo 4 bacche di ginepro. Questo è molto importante per il gusto un po' intenso che ha la lepre, per aiutare a sostenere il gusto con la leggerezza delle erbe, appunto. 2 foglie di alloro e dei grani schiacciati di pepe nero. Bagniamo a questo punto con del cognac, lo facciamo flambare, quindi bruciare, facciamo evaporare la parte alcolica. Una volta evaporato questo, copriamo con del ghiaccio, come si fa per una salsa classica, quindi facciamo uno shock termico con un po' di ghiaccio, copriamo con acqua, lasciamo bollire a fuoco dolce per un'ora circa. Dopodiché avremo la metà, quindi ridotto tutta questa acqua iniziale che diventa prima brodo e poi salsa. Filtriamo e teniamo da parte questa nostra intensa salsa di lepre. E poi cosa facciamo? Con le lombate che avremo staccato dai piccoli pezzettini di osso che abbiamo, con cui abbiamo fatto la salsa, avremo appunto 8 piccole lombate che cuoceremo a 65 gradi nel burro chiarificato. Quindi una cottura, una sorta di cottura lenta, cottura a bassa temperatura, però non fatta al vapore o non fatta in un brodo, ma fatta in un burro chiarificato, anche lui aromatizzato con un decilitro più o meno di cognac. Si cuoce per 4 minuti, la si leva da questo burro, la si fa riposare in maniera tale che il sangue all'interno torni a essere uniforme su tutti i pezzi, su tutte le lombate della lepre. Una volta fatta riposare, la tagliamo a fette molto molto sottili, le disponiamo a mo' di carpaccio, che è un carpaccio semicotto, che è proprio per questa cottura delicata. Cospargiamo con la nostra salsa civet, nel caso avessimo recuperato un po' di sangue, questo fondo di civet che vi ho spiegato, potremmo montarlo con un goccino di questo sangue di lepre, però naturalmente nelle cucine adesso non è più possibile trattare la parte del sangue, per cui manterremo questo fondo. Copriremo leggermente la nostra lepre e poi termineremo il piatto con 20 grammi di uova di trota, quindi un pesce di fiume che troviamo in Val d'Aosta, che hanno questa parte croccante, questa parte molto intensa anche di pesce, che è abbinato alla lepre e alla sua salsa sta molto bene. Una grattugiata di rafano fresco che dà ancora più freschezza al piatto, delle scaglie di sale e poche nocciole schiacciate, tostate precedentemente e schiacciate. Beh, mi sembra molto interessante. È un po' più elaborato come piatto. È anche un omaggio proprio alla Valle d'Aosta, questa raffa di nocciola, no? Credo sia un richiamo. Nocciola, poi ci sta l'alloro, ginepro, insomma, tutte queste bacche anche che anche gli animali mangiano, per cui si nutrono di queste cose e poi le troviamo come profumi trasversali nel piatto. Allora, bella, partiamo dal vino nel nostro viaggio. Partiamo dal vino. Io sono perfettamente d'accordo, anche perché negli ultimi anni i vini della tradizione valdostana stanno crescendo tantissimo, possiedono delle qualità e delle caratteristiche che piacciono molto e sono molto apprezzati. Io preferisco dire vini della tradizione piuttosto che vini autoctoni, perché ogni singola bottiglia è proprio un'espressione del territorio e della tradizione, del lavoro che c'è dietro. Come sta il Torrette? Come sta? È bravo, tutti il Torrette ormai lo conoscono, sì, il Torrette tra l'altro è uno dei miei preferiti, che sarebbe un Petit Rouge comunque, sì, come esatto. Vitigno, esatto, è uno dei più diffusi in tutta la Valle d'Aosta, mentre in Bassa Valle ad esempio si trova anche il Nebbiolo, che qua si chiama Picotentro. Ma anche grandi bianchi avete, anche no? Bianchi. Anche grandi bianchi, e la più caratteristica direi che è la Petit Arvine, che è proprio un vitigno locale che si trova in Valle d'Aosta, mentre salendo verso il Monte Bianco ricordiamo i vitigni proprio più eroici, quelli che arrivano fino ai metri, anche spumantizzato, quindi un vino molto, molto particolare, molto profumato. Senti, e che ovviamente si abbina benissimo con i piatti. Sulle ecco. Denominazioni, le certificazioni, siamo ancora un po' indietro, no? L'IGP... Il DOCG, da questo punto di vista, ancora si può crescere, ammesso ovviamente che questa cosa poi serva fino in fondo, perché non sempre è una garanzia, no, al 100%. Dal 1985 c'è la DOC Valle d'Aosta che racchiude, diciamo, le zone, le sottozone, però comunque il fatto che non è quello che è importante, è proprio il fatto che questi vini sono conosciuti e sono apprezzati nonostante siano di piccoli produttori, nonostante comunque siano ancora difficile trovarli sul mercato, perché al di fuori della regione spesso non si trovano, in tutta Italia figuriamoci all'estero. Quanto c'è stata di influenza francese sulla produzione del vino o sui vitigni in Val d'Aosta? Esatto, addirittura alcuni vitigni, come può essere anche la Petit Arvine che ho citato prima, si dice che arrivi dalla Svizzera, quindi chi può dirlo se è vero che è originario della Valle d'Aosta, se invece arriva dalla Svizzera, questa è una diatriba costante, bisognerebbe proprio parlarne con dei produttori, ma gli stessi grandi produttori della Valle d'Aosta, come può essere Grosjean Vini, ti sanno raccontare tutte queste storie che addirittura risalgono ai loro nonni quando coltivavano loro la vite nella regione in piccoli appezzamenti che tuttora resistono. Io sono innamorato della bollicina, se si può chiamare, correggimi ti prego Arabella, che si sta sviluppando negli ultimi 10 anni sulla Val d'Aosta, giusto? Bravo, esatto, per quello dico che merita di essere provata, perché comunque è molto particolare, però proprio questa è una sua peculiarità che si abbina molto bene coi piatti che si assaggiano la costa con, ecco, soprattutto che io trovo con quelle che possono essere erbe, fiori e frutti spontanei di montagna, certo. che con la bollicina della zona è perfetta. Comunque ci sono molte erbe spontanee, molte erbe aromatiche, e comunque vediamo i frutti, le frutte secche, no? Le nocciole, le mele, i frutti, certo, di bosche e anche i fiori. Dei piatti anche solo vegetariani con dei fiori come può essere la rosa canina, con cui anche si recava il grattacuil, che sono delle salse, visto che prima parlavamo, esatto, di salse. Il grattacuil parlato. Vabbè, dai, su, Arabella, grazie, beh, è chiarissimo e mi sembra un ottimo scenario. Grazie, complimenti, Spazio News, vai. Il pomodoro viola olandese ha vinto l'Oscar dell'innovazione nell'ortofrutta, nomination anche per un carciofo viola italiano disponibile per 9 mesi all'anno, e qui insomma l'obiettivo non è soltanto l'aspetto estetico, ovviamente. Bravo, ecco, su questo. È il connubio fra estetica, quindi novità, perché sicuramente la novità dell'occhio è importante, ma soprattutto esistono qualità. Gli asparagi rosa, gli asparagi verdi, però certo, sono tutti dettati dal fatto che crescono con un microclima diverso. Ecco, l'importante è che questo stesso colore che viene dato a queste verdure. Sia naturale, non artificiale. Esatto. Esatto. Grazie. L'Italia lo scorso anno, tra l'altro, aveva vinto l'oro grazie al kiwi rosso del gusto orientale prodotto dalla Gingold, ha dovuto cedere il primo posto quest'anno. Questa all'Olanda. Te la devo dire, sai che ci sono delle fragole invertite, cioè bianche con i puntini rossi, che hanno un gusto tremendo, arrivano dal Giappone. La maglia era trasferta, esatto, esatto, la doppia maglia come esatto. Per cui si sta aprendo il panorama vegetale, spero non solo sulla parte estetica, ma dalla parte invece che fa bene. Siamo a un passo dalla Valle d'Aosta. Genepi, chi frequenta la valle lo conosce molto bene, prodotto piemontese, ha ottenuto il marchio IG, un riconoscimento dell'Unione Europea. La produzione attuale è di 30.000 bottiglie. Produttori trasformatori sono 13, fra Cuneo, Asti e Torino. È una bellissima notizia, perché insomma è un liquore assolutamente di particolare, qualità. Di grande qualità e che si adatta perfettamente a quel tipo anche di clima. E poi c'è Roberta Garibaldi che ci parla del rapporto sul turismo enogastronomico italiano 2020. Come stai, Roberta? E soprattutto come ce la caviamo? Il 53% dei viaggiatori nel mondo si dichiara turista enogastronomico. La vera domanda è: ma gli altri 47, ma che fanno? Buongiorno, ma Roberta. Ma come viaggiano male, Roberta? Buongiorno, ciao a tutti. Mangiano anche gli altri e guarda, al 94% oggi vogliono vivere esperienze enogastronomiche memorabili in viaggio, praticamente tutti, nel senso che abbiamo visto, pensate che la prima, sono andata a ricercare, la prima raccolta dati che è stata fatta su questi temi era negli Stati Uniti nel 2007 e parlava del 17% dei turisti che voleva vivere queste esperienze, ovviamente che vanno al di là del mangiare normalmente nei ristoranti in viaggio, partecipare ad eventi relativi al cibo, al vino, alla birra, andare a visitare una cantina, andare in un ristorante particolare. Oggi il 94% dei turisti vuole viverlo in tutti i vari paesi del mondo che abbiamo mappato, e quindi davvero una nuova centralità dell'enogastronomia, certo, del turismo, che è cresciuta in questi anni parallelamente alla crescita dei prodotti certificati, al parlarne sempre di più. Questo scusa, la domanda che io e Dani ti vogliamo fare è questa: quindi tutto questo non può che fare bene all'Italia, perché se il turismo diventa sempre più driven, sempre più guidato anche da una componente di esperienza, da una componente di piacere, di gusto, insomma l'Italia dovrebbe essere in testa. Infatti siamo in testa in 7 indicatori, se non sbaglio, no? Le produzioni di eccellenza. Sì, siamo andati a mappare a livello europeo, abbiamo creato 8 parametri e quindi escluso l'Inghilterra, che nella parte birra ha un numero maggiore al nostro, su tutti gli altri parametri, dalle produzioni d'eccellenza, le aziende di vitivinicole, le aziende olearie, le imprese di ristorazione, i musei del gusto, le città creative UNESCO legate all'enogastronomia o alla certificazione UNESCO legata all'enogastronomia, siamo primi. Italia e Inghilterra 7-1. Questo è il dato oggettivo. Occhio che si stanno proponendo con tanti prodotti adesso dopo Exit. Certo, vabbè, ma questo è anche sano, è anche sano, ovviamente, perché insomma vuol dire stimolo. Grazie a Roberta Garibaldi. Grazie, fra Roberta. Poco torniamo. Abbiamo ancora 2 ricette particolarmente gustose. Partiremo dal carciofo, uovo, salsa di noci, mela e mocetta in polvere, poi VS e Soldani, tante altre cose. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarti. Mangia come parli, mangia come parli. Allora vai, carciofo, uovo, salsa di noci, mele e mocetta in polvere. Mocetta in polvere, allora qui io partirei dalla cosa più importante, che magari è la mocetta, che viene tagliata a fette sottili, viene fatta essiccare al forno, quindi una volta che è secca, non bruciata, deve praticamente essere tritata o passata in un frullatore e resa in polvere e tenuta da parte. Poi semplice, 4 cuori di carciofo più o meno del diametro di 6 cm, potremmo nel caso utilizzare le mammole, nel caso lo ci trovassimo già, visto che il clima sta cambiando così tanto, quindi vanno puliti, ben puliti, tolta le spine esterne, tolta la barba centrale e cotte con uno spicchio d'aglio nero, quello fermentato, una DOP italiana, quell'aglio di Voghiera, facciamo un po' un incrocio, sì, anche tra le regioni italiane. Facciamo arrostire i nostri carciofi con un po' di olio in una padella, aggiungiamo il nostro spicchio d'aglio, cuociamo con un goccio di vino bianco, lo facciamo ridurre, un goccino d'acqua e per 6-7 minuti cuociamo. Leviamo dalla base di cottura i nostri fondi di carciofo, li teniamo a parte. Cosa facciamo? Dopodiché prendiamo il nostro aglio, lo spremiamo bene con un passino in maniera tale che otterremo poi una purea leggermente profumata di liquirizia, perché ha la caratteristica della liquirizia l'aglio fermentato nero. Otterremo questa nostra purea che andremo a diluire al fondo del carciofo, e anche lui, come il carciofo base, il cuore del carciofo, lo otterremo da parte. Per la salsa noce invece è molto semplice: 100 g di noci sbucciate, naturalmente, 40 g di pane ammorbidito in 4 centilitri di succo di mela, 10 g di rafano crudo grattugiato, 1 centilitro di liquore all'anice, 2 centilitri di olio di noci. Dopodiché metteremo questi ingredienti tutti in un frullatore, otterremo una salsa così liscia, chiamata appunto salsa di noci, che utilizzeremo come base, dove adageremo il nostro fondo di carciofo, la nostra salsa anche di aglio profumato di liquirizia. E cosa faremo? In ultimo prepareremo le nostre uova poché, quindi 4 uova da 50 grammi l'uno più o meno, cotte in un tegamino a fuoco basso oppure in un po' di acqua acetata con un po' di sale, mantenendo una cottura rosa all'interno, per cui mantenendo il tuorlo d'uovo ancora cremoso. Una volta scolato aggiungeremo alla nostra salsa di noci, alla nostra moccetta sbriciolata sopra, il nostro uovo e il carciofo, per cui c'è un piatto che ha dolcezza, che ha sapidità, che ha acidità, equilibrio. Che ha parte, sì, esatto, quello che io chiamo equilibrio dei contrasti, anche in questo piatto semplice all'apparenza, come uovo, carciofo, salsa di mele, bellissimo, salsa di noci, mele e moccetta, risulta bellissimo. Quello che è il grande punto della cucina che chiamo equilibrio dei contrasti. Ed è anche una sintesi, diciamo, di una cucina di montagna, però declinata in una salsa, con uno stile più primaverile, la più moccetta fresco, no? Utilizzata così, che naturalmente si può definire un salume, utilizzata in questa maniera mantiene il profumo della moccetta, però poi c'è questa parte croccante, visto che la rendiamo polvere, che dà onore, dà equilibrio, dà consistenza a questo piatto molto Fantastico. Tenero. SOS Oldani. SOS Oldani. Nadia da Como. Ciao chef, mi spieghi la differenza tra bisque e fumetto? Grazie. Certo, la bisque è fatta con carapaci dei crostacei, quindi può essere scampi, quelli che consiglio, scampi, aragosta o astice, mentre il fumetto è un brodo fatto con delle lische di pesce bianco che vengono messe a bollire delicatamente, per cui hai un brodo. L'altra, la bisque diventa una salsa, una riduzione, una cosa più intensa. E poi viene dal crostaceo. Crostaceo, esatto. Daniela da Piano Gentile. Questo sicuramente. Si stai commuovendo, Daniela. Salve chef, in cosa consiste il processo di sbianchitura in cucina? Sbianchitura è quando si fa bollire un po' di acqua, normalmente salata o acetata, delle verdure, o possono essere la frutta secca, può essere anche un pesce, un crostaceo, però in maniera veloce, acqua bollente dentro e fuori. Davide da Spirano. Buongiorno chef, la pasta piccola la cucino sempre con i legumi, mi suggerisci un altro modo per usarla al meglio? Grazie. Beh, con i legumi va bene, se volesse fare un piatto completo va benissimo con legume, se non fosse con legume, per completare il piatto completo, scusate il giro di parole, con una carne o con un pesce. Allora, o con delle uova. Abbiamo già collegato Davide Sacchi, responsabile marketing e comunicazione dell'azienda Life, lavorazione e importazione della frutta essiccata, ed è particolarmente interessante perché stiamo per fare una cosa nella quale, insomma, la frutta secca ha un suo ruolo, no? Beh, frutta secca, devo dire, sì, è importante nella cucina, era importante prima, più forse nella pasticceria, e poi è naturalmente, per logica di qualità, è entrata nel mondo salato della cucina, per cui è per questo che la prossima, anche se io la presento come dolce, la prossima ricetta è dedicata alle mandorle. Allora, prima della ricetta, Davide, ciao, benvenuto. Buongiorno ragazzi. Sei d'accordo, ciao, con quello che dice Oldani? Cioè, non è più soltanto legata al dolce, ci sono utilizzi creativi, cioè da questo punto di vista molta più apertura mentale, molta più fantasia, molte meno compartimenti, no? E etichette. Assolutamente, come non essere d'accordo con Davide, oltretutto, visto che è mio omonimo, quindi più di così se muore. E sì, assolutamente, il discorso che comunque, come anticipava, la frutta secca veramente si può utilizzare in moltissimi ambiti, quindi dall'antipasto, dall'aperitivo, addirittura antipasto, primi, secondi, e addirittura io ho visto già anche degli smoothies fatti con frutta secca, quindi veramente a 360 gradi. Oli, noi stiamo iniziando a utilizzare degli oli fatti con mandorla, con nocciola, eccetera, pressati a freddo, e devo dire che sono grandi prodotti, cioè nella cucina io negli ultimi 2 anni o 3 anni ho iniziato a usare appunto questi oli per condire, per diluire, per dare un profumo, per dare il tocco finale ad alcuni piatti che possano andare dal pesce alla carne, alla frutta, alla verdura, alla pasticceria stessa. Certo. Questo è un trend che voi seguite? Fate anche queste produzioni, a parte la frutta secca, anche dei derivati come l'olio che ho appena raccontato? Sicuramente questo qui è una nuova frontiera, quindi ci stiamo anche noi attrezzando, poi come si accennava prima, voi calcolate anche, per esempio prendiamo una nocciola. La nocciola la puoi consumare tal quale, granellandola o rendendola in farina. E la nuova frontiera, come dicevi tu, appunto l'olio. Io addirittura ho visto anche dei burri. Lo sto usando. Con la frutta secca. Esatto. Davanti a tutti. E sono mi piace questa cosa perché è comunque una cosa molto sana, è comunque una cosa che fa parte di un nuovo modo di vedere la cucina e la pasticceria, e che vedo che la gente accetta con apprezzo. Molto piacere. E allora, torta di mandorle, zucca e nocciole alla cannella, vai. Allora, questa è molto semplice: 80 grammi di zucchero moscovado, 100 grammi di mandorle in polvere, 100 grammi di nocciole, anche loro sbucciate in polvere. Uniamo questi 3 ingredienti, li lavoriamo delicatamente, aggiungiamo 80 grammi di tuorli d'uovo sbattuti a parte con 30 grammi di miele, ed infine avremo preparato anche a questa parte 250 grammi di albumi montati a neve con 80 g di zucchero moscovado e 4 g di sale fine. Uniamo questi due composti, per cui l'albume che andiamo ad aggiungere alle farine darà una morbidezza speciale alla fine della cottura della nostra torta. Aggiungiamo 80 g di zucca a dadi tagliati più o meno 5 mm che avremo cotto leggermente a vapore, per cui anche qui vedi la trasversalità di questa ricetta, che viene utilizzata, viene aggiunta poi una zucca che normalmente è utilizzata nella cucina, e basta. Poi mettiamo il tutto in una piccola tortiera da 20 cm imburrata e infarinata precedentemente, e a forno preriscaldato a 170 gradi la cuociamo per circa 20 minuti. Una volta sfornata si toglie dalla tortiera e la possiamo spolverare con un leggero profumo di cannella, che naturalmente ricorda, a me ricorda tanto la montagna, in questo caso la Val d'Aosta. Davide, bene? Come siamo andati? Assolutamente sì, voto 10 più e non vedo l'ora di assaggiarla. Vieni ad assaggiarla e poi vieni in attesa di vedere anche i prodotti nuovi che state lanciando, insomma, dedicati al sano e al buono della frutta secca. Assolutamente. Unire, esatto, il sano con il gustoso, che non è da poco. Assolutamente, è stato il giorno dei Davide, da Pessina, Oldani fino al nostro Davide Sacchi. Grazie Davide. Di cuore. Noi scendiamo giù dalle montagne, ma in realtà cambiamo versante, perché poi nella prossima puntata continueremo. Andiamo in Trentino Alto Adige, per cui continuiamo. Sciamo. Cambiamo versante, ma non cambia la sostanza e la bellezza. Ciao a tutti. Ciao.